Letture di Radio 24. In Italia cresce il numero di persone che si autoconvincono di non avere mai alcuna responsabilità e scendono in piazza a protestare contro tutti gli altri. Ma per quanto sia difficile ammetterlo, il senso di colpa può anche avere un'utilità sociale, scrive Alessandro Piperno, vincitore del Premio Strega 2012, in un articolo pubblicato sul magazine Il. Considero il senso di colpa un ostacolo alla felicità individuale, uno sperpero indebito di energie emotive e soprattutto un sentimento vile. Il senso di colpa è un distributore automatico di risentimento. Prima o poi finisci con odiare chi ti fa sentire colpevole e quell'odio ti renderà ancora più colpevole e il surplus di colpa ancora più odioso. E tuttavia, anche le poche cose buone che ho combinato nella vita hanno a che fare con il senso di colpa. Non mi sarei laureato, non avrei vinto concorsi all'università, non avrei consegnato romanzi agli editori o articoli ai giornali. Certe volte non mi sarei neppure alzato dal letto se non fossi stato pungolato dal senso di colpa. E del resto sarei stato un figlio distratto, un partner infedele, un amico infido, un cittadino incivile, se il senso di colpa non avesse arginato l'egotismo, l'istinto alla dissolutezza e una cronica attrazione per il gossip, per il caos e per l'entropia. Da qui forse bisogna partire per un elogio del senso di colpa. La cosa che più detesto nello spirito dei miei compatrioti è l'eccesso di autoindulgenza. Ancora non mi capacito che nella scorsa tornata elettorale più o meno un italiano su quattro abbia votato un movimento il cui slogan implicito suonava pressappoco così: è colpa vostra, perché noi non c'entriamo niente. È colpa vostra, di voi politici manigoldi, di voi giornalisti omertosi, di voi intellettuali conformisti, di voi professori inetti, di voi imprenditori criminali, di voi burocrati assenteisti, di voi commercianti evasori. È colpa vostra se questo paese è allo sbando. È colpa vostra se tutto funziona male, se le cose hanno preso una piega così pericolosa. È colpa vostra se tutto è così inefficiente, così sporco, così melanconico. Il fatto più increscioso è che questo slogan implicito abbia seduto tanti italiani che si sarebbero dovuti sentire colpevoli: intellettuali, professori, imprenditori, burocrati, commercianti che avrebbero dovuto sentirsi parte in causa e che invece hanno preferito prendere le distanze da loro stessi, dalla loro stessa categoria, dai loro stessi errori. Evidentemente era così difficile accettare l'idea di essere colpevoli che hanno trovato assai più confortante dare la colpa agli altri. Gli altri. Chi sono gli altri? Semplice. Tutti quelli che non sono io. Tutti quelli che non sono qui con me a protestare in questa piazza, in questo preciso istante. D'un tratto, un italiano su quattro ha iniziato a crogiolarsi nell'illusione autoassolutoria di non avere alcuna responsabilità, di essere completamente incolpevole. Sono stati loro. Io non c'entro niente. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Dopotutto siamo il solo popolo che nei due conflitti mondiali ha cambiato casacca in corsa per ben due volte, correndo, per dirla con Flaiano, in soccorso dei vincitori. Forse il solo movimento politico che servirebbe davvero all'Italia è quello il cui slogan tuonasse «È colpa nostra». Ma dubito che un partito così severo con i suoi adepti e con se stesso avrebbe un grande seguito popolare. L'italiano non si sente mai in colpa. L'italiano non vede l'ora di dare la colpa agli altri. La ragione per cui l'italiano stenta sempre a dimettersi è perché non può accettare l'ipotesi di aver sbagliato. Una trentina d'anni fa, Alberto Arbasino pubblicò uno strano pamphlet intitolato «Un paese senza». L'idea di fondo è che all'Italia mancasse qualcosa. Già, ma che cosa? Per Arbasino, l'Italia di allora, ma lo si potrebbe dire ancor più di quella di oggi, mancava di memoria. Arbasino alludeva alla memoria culturale, naturalmente, ma forse bisognerebbe spostare la questione dal piano culturale a quello della coscienza individuale. Non c'è niente che l'italiano dimentichi più volentieri delle colpe che ha commesso. Ogni tanto mi capita di mangiare un panino nel bar della facoltà con un mio collega, un professore di letteratura inglese di Manchester che vive e lavora in Italia da più di 20 anni. L'altro giorno gli raccontavo di quando da piccolo, in pieno evo thatcheriano, andavo in Inghilterra in vacanza studio. Era sconcertante per me, ragazzino viziato, constatare la modestia del tenore di vita delle famiglie che mi ospitavano. Possibile che quella fosse la classe media in Inghilterra? Mangiavano carne una volta ogni 2 settimane. Andavano al cinema ogni morte di regina. Indossavano sempre lo stesso paio di scarpe. «Guarda che è ancora così», mi ha detto lui. «La cosa che mi colpisce degli italiani è il tenore di vita, la condizione di una famiglia qualunque italiana. È decisamente più prospera di quella di una famiglia qualunque inglese. Però voi italiani non fate che lamentarvi, non fate che prendervela con le istituzioni. Avete sempre qualcuno a cui dare la colpa». Così anche lui se n'è accorto. Mi sono colto a pensare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Piperno sull'utilità civile del senso di colpa, dal numero di maggio del magazine Il. Il 6 giugno 1940, 13.000 bambini delle colonie italiane in Libia vennero mandati in Italia per quella che, nelle intenzioni del Duce, avrebbe dovuto essere una vacanza di 3 mesi, durante i quali avrebbero avuto la possibilità di conoscere la loro patria e venire educati al regime fascista. Ma lo scoppio della guerra cambiò le sorti di questi giovani e la loro permanenza in Italia si protrasse per anni. Grazia Arnese Grimaldi era una di loro e oggi ricorda in un libro la sua esperienza nelle varie colonie italiane, lontana dai genitori e affidata alle vigilatrici che avrebbero dovuto sostituire le loro mamme. Di molti di questi bambini italo-libici si persero le tracce, ma soprattutto, come sottolinea l'autrice al termine del suo ricordo, vennero dimenticati dalla storia. Nell'anno 1946, il vescovo di Roma, Papa Pio XII, si rende conto che gli istituti religiosi che ospitano quei tanti bambini della ormai ex colonia libica debbano affidare ad altri il compito di assistenza e protezione, nonché l'aiuto necessario per il ricongiungimento alle famiglie rimaste in Africa. Indice perciò un censimento. Dei 13.000 bimbi ne restano solo 10.000, che vengono sistemati in campi profughi allestiti nelle periferie di Roma, Grosseto, Assisi, Napoli, Bagnoli, Siracusa e altre città. Molti ragazzi vanno a lavorare presso famiglie contadine per sfamare se stessi e fratelli e sorelle ritrovati dopo anni di colonie e gil. Nei campi profughi la fame era immensa e chi nottetempo scappava nelle campagne alla ricerca di cibo molte volte restava dilaniato da bombe inesplose disseminate ovunque. Così morirono tanti. Gruppi di bimbi vennero alloggiati tra i malati di mente del manicomio di Aversa. Altri più fortunati trovarono posto nei padiglioni vuoti di Cinecittà. Nessun capo di Stato italiano del dopoguerra si interessò degli italiani di Libia e dei loro figli che continuavano a vagare per l'Italia come relitti umani. Solo nel 1953 il ministro Foschi, in modo personale e non governativo, sentì il dovere di fare un salto a Tripoli per conoscere quelle tante famiglie dimenticate dalla patria. Gli inglesi non permettevano nessun ingresso in Libia. Il ricongiungimento dei ragazzi venne però fortemente richiesto dal vescovo di Tripoli, che riuscì ad allentare la ferrea opposizione dei vincitori, programmando il rimpatrio di cittadini che volevano lasciare la Libia e introducendo in Africa lo stesso numero di persone, cioè quei ragazzi. Viaggi pietosi, su navi dismesse, barconi alla deriva, che marcavano ancor più il senso del disfacimento e la rovina di quell'Italia, di quella patria distrutta da una guerra insensata, voluta dal Duce, declamata e osannata anche dalla folla in Piazza Venezia a Roma, non certo dai coloni libici. Complessivamente, ritornarono sul suolo libico solo 1.500 di quei ragazzi. Molti dei profughi, avviliti per questi rientri così ostacolati, decisero di non rivedere più i loro genitori e cercarono strade emigratorie per la Francia, l'America, l'Australia. Molte ragazze nei campi profughi, rimaste incinte da soldati inglesi ed americani, si sposarono trasferendosi in terre straniere. Già nelle colonie GIL, tantissimi bimbi di soli 11 o 12 anni, indottrinati con fanatismo, vennero arruolati nell'esercito della Repubblica Sociale di Salò e trovarono la morte in battaglie contro i partigiani. Altri andarono in Germania in campi di lavoro e morirono nei lager. Ancora oggi i nostri libri di scuola non parlano di questo tassello di storia italiana che fa parte, a torto o a ragione, del nostro bagaglio culturale e del nostro periodo colonialista. Il 22 gennaio 1943 gli inglesi conquistavano Tripoli dopo aver sconfitto a El Alamein le nostre truppe. Il 24 dicembre 1951 l'intera Libia ritornava a stato sovrano e il monarca eletto, re Idris Senusso, dichiarava che nel suo suolo libico la collettività italiana era ancora ben accetta, riconoscendo i meriti del grande lavoro fatto dagli italiani che avevano dato nuova vita e impulso al suo paese. Vi furono patti bilaterali di estrema chiarezza, subito applicati. I contadini ex coloni divennero proprietari delle case e dei poderi lavorati nei loro villaggi, con diritto di eredità per i figli. Il 1 settembre 1969, però, il colpo di Stato perpetrato da Muammar Gheddafi annullò questo patto e la monarchia. Nel luglio 1970 vennero espulsi dalla Libia tutti gli italiani, ai quali venne confiscata ogni loro proprietà ed ogni risparmio, persino i fondi depositati nelle casse dell'INPS, cosicché non ebbero diritto di pensione, vedove, orfani e vecchi. Mia madre, vedova, tornò in Italia con soli 7 kg di indumenti. Non poté riavere mai né casa né terreni lasciati in affitto nel 1938, perché la legge italiana sul blocco dei fitti, durata 41 anni, non lo permetteva. Per derisione della sorte, non si aveva diritto neppure ai buoni di assistenza come profughi, perché titolari di casa e terreni, le cui tasse superavano l'affitto. I danni di guerra, montanti a 2 milioni, vennero liquidati al 10% dopo 20 anni e l'importo ricevuto non bastò a coprire le spese di domande bollate, atti notarili, testimonianze oculari e tragitti a Roma, dove l'ufficio del Ministero dei Danni di Guerra ogni anno richiedeva ex novo le documentazioni e la testimonianza oculare di chi nel frattempo o era emigrato o era già morto. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Grazia Arnese Grimaldi, I 13.000 ragazzi italo-libici dimenticati dalla storia. Marco Sabatelli editore, 320 pagine, 18 euro.